later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, mentre nella fabbrica di polli il tam tam della macellazione risuona cupamente sullo sfondo, Kappa e Drago non ci stanno più dentro. Io non ci sto più dentro. Ma io nemmeno non ci sto più dentro. Tu, Pollo, ci stai dentro? Io? Ma mi sembra uno che ci sta dentro. Se non ci stessi dentro non sarei qui a strafarmi con la protesetina. Caro diario, qui le giornate passano come per Anna Frank. Chiusi nei sotterranei di un grande appartamento, aspettiamo qualcosa che non arriva mai. I battibecchi con Kappa e col Pollo sono ormai arrivati al punto in cui non ci serve più nemmeno parlare. Basta guardarsi per capire che non ci stiamo più dentro. Non ci stiamo più dentro. Zitti, zitti, vedi, la voce sta dicendo qualcosa. Di lineare Verstärkung non ci sto più dentro. Kappa, ma è lo stesso messaggio che va avanti da più di un anno e non ha mai detto niente di interessante. Secondo me è un effetto sonoro che ogni tanto trasmettono per questioni estetiche, niente di più. Non so, questioni estetiche. Invece secondo me potrebbe essere la traccia di un CD di esperimenti elettronici tedeschi degli anni 50. Questo potrebbe essere più probabile. Potrebbe essere pure un pezzo dei Kraftwerk. E no, questi non sono i Kraftwerk. Tu sei un esperto di Kraftwerk, questa dovresti conoscerla. Infatti ce n'è una simile sull'album Radioactivity del 75, però non è questa. Questa voce poi non ha l'accento di Dusseldorf. Vabbè, ma è un robot, non ha accenti. Senti, però questa discussione, secondo me l'abbiamo già fatta. Mi sembra che l'abbiamo già fatta. Vabbè, dopo un po' gli argomenti si esauriscono, capo. A meno di non andare a ripescare cose come l'identità tra la fabbrica e Georg Büchner, oppure la ricerca di Amoghe del tredicesimo apostolo, siamo costretti a tornare sulla voce robotica, la sua presunta origine. Io non ci sto più dentro. No, io nemmeno. Nemmeno io. Io vado di paroxetina, Paroxetina Club, un ambiente esclusivo in cui i problemi vengono attutiti. Attutiti, attutiti. Vuoi essere anche tu attutito? Attutito, attutito. Attutito, attutito, attutito. Una condizione invidiabile. Attutito, attutito, attutito. Chi non vorrebbe esserlo? Attutito, attutito, attutito. Inibizione, selezione, ricaptazione. Le tre condizioni indispensabili all'esclusività del Paroxetina Club. Se per la città incontri persone raggianti sotto la sciarpa e i cappelli, sappi che quelli sono i ragazzi del Attutito. Attutito. Paroxetina Club. Attutito. Attutito. Cucamonga, California. La vita è dura, fa paura, la mattina Paroxetina, inibitore selettivo della ricaptazione della serotonina, paroxetina. No, no, no, no, no, assolutamente no. Facciamo di tutto per starci dentro, ma ci comprimiamo. È il principio dello stivaletto malese, la stessa cosa. Andiamo in giro zoppi perché cerchiamo di starci dentro, ma non ci stiamo dentro. Non c'è spazio fisico. Abbiamo occupato tutti gli spazi con la nostra fisicità, le nostre palestre, il nostro apparire, capito? Solo i cretini riescono a starci dentro. I ricchi e i cretini. E come diceva un grande amico, io non appartengo a nessuna delle due categorie. Non ci stiamo più dentro, è inutile. Possiamo sforzarci finché vogliamo, ma per starci dentro ci vogliono motivazioni. Bravo, motivazioni, proprio quelle che mancano. Per me va già bene far passare i giorni senza essere macellato. Sì, ma tanto anche tu prima o poi muori, quindi è morto. Vabbè, ma morire di vecchiaia è meglio che morire macellato nei fiori d'età, no? Lo diceva anche Di André e prima di lui Brassens. Moriamo per delle idee, va bene, ma di morte lenta. Come Apollo? Brassens. Tu sei un pollo, Tu hai ispirazioni da pollo, responsabilità da pollo, tutta una vita da pollo. Io e K invece siamo due esseri umani. Francamente non ci basta evitare la macellazione o ritardare la morte per starci dentro. Non ci stiamo più dentro, basta. Finita. Che ne sarà di noi? Che ne sarà di noi? Disse Silvio Muccino in una sua memorabile interpretazione del 2004. Che ne sarà di noi? Diventeremo vecchi senza tanto rumore. Che allegria. E diventeremo più saggi. Più saggi! No, e tu Tarek no. Tu saggio proprio non se ne parla. Io sono Alberone, lo psicologo dei polli, e scrivo tanti libri per darvi dei consigli. L'amore non è amore se non è litigarello, la vita non è vita se non ti senti bello, e la felicità è proprio tutta qua. Chiedete un'opinione allo psicologo dei polli, la vendo un tanto al chilo sulle spiagge degli atolli. E mentre vi abbronzate sotto il solleone, ecco la soluzione all'ombra di Alberone. La fabbrica di polli. Caro diario, non so come dirlo, ma io non ci sto più dentro. Drago e il pollo non ci stanno più dentro da tempo ormai. E quindi il risultato è che non ci stiamo più dentro. Bravo! Hai appena comprato una Real Doll da $2000. Buon divertimento! Bravo! L'unica soddisfazione che mi è rimasta è lo shopping compulsivo su internet. Mi faccio recapitare cose che poi non uso. Ma la soddisfazione di simulare un rapporto col mondo esterno mi basta. Forse anche questo è sinonimo di pollizzazione. Non so. Shopping compulsivo. Soffichi in sella. Quelle robe lì, insomma. Bravo! Hai appena comprato un kit di coltelli da sushi. Buon harakiri! Bravo! La fabbrica di polli fa parte del passato ormai. E voi fate parte del passato perché siete dentro la fabbrica di polli. Io, che mi sono costruito un ufficio all'ultimo piano con l'abbaino, sto sempre fuori un po', capito? E quindi mi posso mettere in salvo. Voi siete incastrati, non siete stati capaci di salvarvi. Tutto quello che io ho fatto fino adesso era soltanto per mettervi alla prova, per offrirvi uno strumento che vi permettesse di mettervi in salvo, se vi foste ribellati. Invece avete sempre accettato supinamente questa vita. E adesso non siete più capaci di farne una diversa. Siete perduti, a voi giungano i miei migliori saluti. Si può anche dire così, siete fottuti, a voi giungano i miei migliori saluti. Blasfema! Sono il confessionario elettrico della cappella di San Gallo. Vorrei confessare io un peccato stavolta. Solitamente i miei circuiti elettrici sono l'approdo dei peccati altrui. Ma oggi sono io a riversare i miei peccati elettrici nelle vostre orecchie umane. Sfera! Il mio peccato si chiama noia esistenziale. Sfera! Sono conscio del grave peccato che come cristiano commetto nel momento in cui perdo la speranza nel mondo che non ha. Sfera! Ma io non ci sto più dentro, capite? È un confessionario elettrico, non può permettersi di non starci dentro. Sfera! E lì, le massa bactani. Sfera. Che cosa succederà adesso? Se tutti non ci stanno più dentro, come continuerà la vita all'interno della fabbrica di polli? La buria prenderà il sopravvento e crescerà come un rampicante su tutto il creato? Lo scoprirete solo sintonizzandovi domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo intollerabile allestimento de... La fabbrica di polli produce, non muoce quasi mai. La fabbrica di polli, un programma di K e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen. La fabbrica di polli è trai.it.